C'è Master Nick, ma non è solo. Ciao a tutti, a tutti gli ascoltatori del convento, benvenuti. Noi siamo live per un altro sabato sera, sabato Dinner and Dance, che è cominciato, si sta sviluppando e poi esploderà in una grande notte di festa, come sempre. E come sempre succede da qualche settimana a questa parte, con grande piacere, il mio fido compagno al microfono, il nostro DJ Alex Angioletti. Benvenuto Alex. Buonasera a tutti, buon sabato a tutti. Le ore 22:10 minuti quasi. Quasi, esatto. Siamo carichi. Una sorta di più che carichi, siamo riscaldati qui. Siamo riscaldati e non solo, perché c'è giustamente un po' di tepore, come si dice, visto la rigida temperatura esterna. Sono solo 11 gradi, dai. Riscaldati anche perché la pelle del nostro Alex Angioletti è leggermente più abbronzata del solito. Ma per fortuna. Per fortuna. E non è un'abbronzatura artificiale. Esatto, appena tornato da una settimana, 10 giorni. Una settimana a Tenerife. Una settimana a Tenerife. Dove veramente era imbarazzante andare in giro a novembre con pantaloncinetti e t-shirt. Esatto, quello a caccia del cacciatore di caldo, nonostante le temperature. Non solo. Cacciatore di caldo nonostante le rigide temperature estive, com'è andata? Beh, è andata molto bene, devo dire la verità, ci voleva quando, stacco, se si può, se si riesce, molto volentieri. E poi belle esperienze anche sportive, avventuriere, perché comunque c'è il parco, c'è l'oceano che ti aspetta, ci sono le moto d'acqua con 260 cavalli che cavolo, ti aspettano. Cavolo, tanti modi per divertirsi e per avere un po' di distrazioni buone sì, in sì, quel sì. senso. Sì. Ma com'è lo stacco nel partire con un maglione di lana e scendere in maniche corte, una botta di caldo? Allora, bisogna vestirsi a cipolla, questo è sicuro. Beh, sì. E quando prendi su l'aereo, insomma, è meglio che ti prepari appunto allo sbalzo termico, e man mano che ti avvicini appunto alla meta, già dall'aereo già capisci che è meglio, sì, qualcosa cambia. Anche la felpa bisogna toglierla. Devo dire la verità, quando sono sceso dall'aereo, fino al termine ho indossato la felpa, non so per quale motivo, però non mi dava fastidio. Forse il corpo si stava acclimatando. Sì, però dopo non è veramente passato tanto tempo per passare direttamente in t-shirt, anzi in canottiera. Insomma, meno male, anche perché si fanno questo tipo di vacanze in questo tipo di periodo proprio per quello. Tenerife è conosciuta per, a parte il mare chiaramente, i villaggi e tutto il resto, c'è qualcosa di particolare che la caratterizza? Allora, c'è il Parco Nazionale Tid, che è un vulcano attivo. No, anzi no, loro non è attivo. No, non è attivo. Ok. Beh, comunque è un'attrattiva, sì, quello sicuramente. Però è più alto della Spagna. Ah, però. Sì, sono 3200 metri circa. Ah, passatemi però qualche numero se dovessi sbagliare, insomma, la geografia. Però più o meno siamo lì. Però veramente è un paesaggio spettacolare, perché è lunare. Quando si arriva su a meno a 2700 metri, che è percorribile dalle auto, poi dopo c'è la funivia che ti porta proprio in cima, crudo, nel vivo del vulcano, e lì bisogna andare. No, forse nel morto, perché a 3200 mi sa che non c'è neanche una pianta praticamente. Sì. Allora, 2007 c'erano circa 18 gradi ventilato, quindi non era pochissimo, però ecco, magliettina si stava un po' un attimo, ti dava un attimo un pizzico di fastidio. Però c'è una situazione veramente straordinaria, perché sembra di stare su Marte, almeno certo. Tu ci sei stato? Immagino. Su Marte? No, non ancora. Ho prenotato, ma mi devono mandare il coupon. Guarda, se fai arrabbiare qualcuno ti ci manda. Sì, succede, sì. Succede spesso. No, beh, di solito non si manda in un paese definito quando fai arrabbiare qualcuno. Non però veramente lunare, spaziale, un ambiente spettacolare. Poi comunque man mano che scendi di quota vedi anche i pini, varie zolle di tipologie di terra, dalla lava al rosso, allo zolfo, insomma continuamente in cambiamento in questi chilometri di percorrenza del comunque parco. Comunque uno spettacolo nello spettacolo. Sì, poi dopo si passa direttamente, insomma, il vivo del Tenerife, appunto, è l'oceano, le spiagge, che non sono tante, devo dire la verità, perché sono, ecco, di origine vulcanica, quindi c'è il magma proprio che prevale ed è anche direttamente, cioè proprio si introduce direttamente sull'oceano, quindi sì, di spiaggia non è che proprio. Però se vai dalla parte di Santa Cruz, che è appunto la capitale di Tenerife, lì c'è la playa, veramente bellissimo, un altro paesaggio, da punto bianco. Si sta bene, ovviamente hanno dovuto fare delle barriere artificiali per poter calmare un attimo l'oceano, perché se no impatta troppo sulla spiaggia, la potrebbe divorare in un attimo. Però è balneabile, sì. Sì, assolutamente. Ah, okay. Si può comunque andare. Anche molto grande, quindi bene, poi i servizi sono bellissimi, cioè hanno metropolitana, il tram, cioè la metropolitana no, però hanno il tram, hanno gli autobus, i collegamenti autostradali, che in realtà non è un'autostrada, è una tangenziale abbastanza grande, aperta, e poi ci sono appunto questi paesi che Los America, Los Gigantes, che sono praticamente dei paesi nati proprio per il turismo, quindi è un po' lì si può scontrare un po' di tutto. Certo, certo, okay. Beh, però è una bella cosa che non ci sia solo l'inflazionato villaggio tipico, resort tipico, ma che si possa anche vivere di che è l'ingresso. Ecco, mi sei venuto in mente, dopo ti farò vedere il video che ti volevo dedicare, che praticamente te quando entri nella hall di l'Hard Rock Caffè, sì, alzando gli occhi al cielo, sì, c'è praticamente quattro pareti di piatti di batteria. Boh, fantastico. Fantastico. È una grande accoglienza. Dopo quando saremo in pubblicità ti faccio vedere. Sì, sì, sì, assolutamente sì. Cosa succede in questi minuti? Ovviamente non parleremo solo di vacanze fatti nostri, ma ho colto l'occasione, insomma, di questo viaggio, sì, anche per condividerlo con i nostri ascoltatori. Parliamo del più e del meno, come sempre succede. Focus ovviamente alla nostra serata qui al convento di Lonato, ma raggruppiamo un po' le curiosità, le notizie della settimana, insomma quello che è successo, e vediamo come sempre quello che ci regala le news, il palinsesto musicale intanto, sì, ma anche le news più interessanti e più curiose della settimana. A proposito di palinsesto musicale, canzone che sta entrando prepotentemente nella programmazione di tutte le migliori radio internazionali e non solo, e anche nazionali ovviamente, la proponiamo anche noi, il ritorno di Dua Lipa col nuovo singolo che si intitola Don't Start Now, ed è una vera, vera bomba. Now, now. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with someone, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better off. Siamo rientrati. rientrati. Siamo rientrati e questo era il nuovo singolo di Dua Lipa, Don't Start Now. L'abbiamo ascoltato ovviamente all'interno del convento. Vabbè. È un buon groove, ma d'altronde Dua Lipa, sì, diciamo, è sempre che... piacevole ascoltare. Sì, e non sbaglia. Siamo tornati in diretta, Master Nick e Alex Angioletti, per questo sabato Dinner and Dance. Sono le 22:18, quasi 19. Minuti. Nell'intervento di apertura, il nostro Alex ci ha raccontato della sua. Mica tanto perché una settimana comunque è un buon, una buona vacanza, c'è modo di vedere e fare tante cose a Tenerife, e ha detto una parola che mi dà il là e il gancio per tre, allora, se vogliamo essere precisi, tre. Vabbè, perché dopo tu, vabbè, allora dillo, sono tre. E dicevo che mi dà il là e il gancio a una notizia importante, cioè importante, una delle notizie che ha caratterizzato la settimana. Infatti prima ha detto Hard Rock Café, che è chiaramente la catena famosissima, aperta più o meno in tutto il mondo. Mi riallaccio sempre ad Hard Rock, stiamo facendo una pubblicità spietatissima. Beh, ma sempre non fa male. Sempre a Tenerife, cioè, hanno gli hotel Hard Rock. Bravo, bravo. Hanno gli hotel Hard Rock con, ovviamente, una esclusiva che sulla tromba delle scale, dove c'è appunto i due o tre, quattro insomma ascensori che vanno su e giù di servizio, c'è tutta una parete illuminata che fa dei giochi di luce, che si vedono a distanza di chilometri. È incredibile. E proprio la grande la grande novità della settimana la grande novità della settimana è che ha aperto anche in Florida un Hard Rock Hotel, quindi brandizzato col famosissimo marchio di ristoranti, bar e caffè. Ma la grande caratteristica, e da quanto si leggeva nell'articolo, sembra che diventerà anche questo una sorta di franchising, quindi che se ne apriranno altri nel giro per il mondo, è che la struttura è proprio a forma di corpo di chitarra. Quindi Che tipo di chitarra? Che te che sei l'esperto? È chitarra elettrica, chiaramente. Ah, elettrica? Sì, no, forse no, più acustica, elettrificata. Ma secondo te chi ci andrà ad abitare alla fine dove c'è la... ma sono le camere che costano, le camere che costano di più. Tra l'altro, a proposito di camere, ti dico che sono 630, quindi insomma, c'è una buona scelta. Tenga, signor Nicola. Numero 630. La 629 vorrei. 630 è troppo importante. Ma sai che cos'è la 13 che non c'è? È vero, o forse la 17. No, in America mi sa che. È vero, però le saltano. È vero che quella la saltano. 17 per noi. Ah, è vero, gli americani sono sul 13. Quindi 630 stanze, una piscina, casinò, una sala anche concerti. Ma cosa vuoi? È troppo scontato. Esatto, è scontatissimo. Non è scontato il costo di tutto questo progetto. Quanto pensate costa? Un po', $1 miliardo. Questo progetto, e non è neanche scontato chi è andato a inaugurarlo, perché se Johnny Depp come presenza principale ci può stare come concetto, pensa che la prima serata, il primo concerto, spara un nome chi può averlo tenuto. Ti dici Hard Rock Café, chi ti può venire in mente? Vabbè, sicuramente è un'icona del rock. Tipo? Un nome a caso? Porca miseria, no, sto cercando di associarlo con l'avvenimento. No, che non esatto. Inaugura il grande hotel a Las Vegas. Precisi, si chiama Seminole Hard Rock Hotel e si trova nella costa di Hollywood, appunto in Florida. Che nome ti viene in mente? Niente, vado, magari dopo mi mangerò. Non ti viene? Andrea Bocelli. Però te lo giuro, inaugurazione all'Hard Rock Café in Florida, e ha cantato. Ma però tu mi hai portato fuori strada, cioè, per quello è quello che volevo. Che fosse un qualcosa, però di... è una grande scelta di marketing, perché tutti si aspettano quel nome che tu stavi cercando nella tua testa, e invece partirò. Sparano Andrea Bocelli con la partecipazione di Johnny Depp. Dicevo che ti rendi conto che Andrea Bocelli è partito facendo le serate con la pianola ricordo. Quindi questo progetto che è partito e si spera di espandersi. Ma a proposito di alberghi, un'altra notizia importantissima della settimana, torniamo sempre lì. Booking praticamente. Sempre lì, perché ne abbiamo parlato un paio di settimane fa di Nutella, e apre ancora il primo Hotel Nutella. E si chiama così, il primo hotel brandizzato Nutella, anche questo in California. No, perché quindi... viene da ridere quando tipo becchi una ragazza e dice io ti spalmerei, tipo adesso ti porto in Hotel Nutella. Fantastico. Hotel Nutella, sì che fa specie nella Napa Valley, quindi anche qui Napa Valley. Vicino anche in questo caso all'Hard Rock Hotel. Ma la grande caratteristica, e infatti non so come sarà possibile sostenerlo, è che sarà aperto per un solo weekend, uno solo, e poi si scioglie nel gennaio del 2020. Questo, se lo mangiano tutti, è bella. Poi va con su tipo che erano Hansel e Gretel, quelli che mangiavano la casa, più o meno quello. Ma volevo salutare Vincent da Naples, Florida, che ci sta ascoltando. Sì, un mio amico. Chi è? Certo. Chiedere. È un carissimo amico. Vai pure col saluto. Salutiamo Vincent. Ciao Vincent, ti raccomando, ascoltaci fedelissimi sempre anche dall'altra parte del mondo. Siamo vicino a te. Ti salutiamo. Lui sta sempre. Lui è quello che sta veramente bene. Sì. È stato inverno. Gli consigliamo appunto di prenotare questo hotel a Nutella, che ha una caratteristica. Non interessa. Ha una caratteristica particolarissima. Al di là dell'ingresso a forma di barattolo, ma quello ce lo si può aspettare, sì, come la forma di chitarra dell'Hard Rock Hotel. Ma essendo un hotel, serve dei pasti. E la caratteristica principale è che la colazione. Secondo me ti hanno dato i soldi di quelli da colazione, pranzo e cena saranno tutti a base di Nutella. Quindi ci sarà comunque un menù che aspetta un attimo che faccio arrabbiare un'amica. Sì. No, perché stiamo ancora parlando di Nutella? Scusa, secondo me tu hai preso delle sovvenzioni alla Ferrero. Perché ci sono state un paio di notizie che nelle ultime settimane hanno confluito, lo stesso argomento. Okay. E anche questo hotel aperto per un hotel weekend. Nutella spammabile. Hotel Nutella aperto in California e aperto per un solo weekend nel gennaio del 2020, per cui non so come potrete prenotare, perché ci sarà già una coda infinita, ma se ci volete provare, tentate la fortuna. Vabbè, mi informerò. Tentate la fortuna. La fortuna invece lei l'ha trovata scrivendo un pezzo che ha funzionato tantissimo e ancora funziona. Lei è Medusa, il brano si chiama Piece of Your Heart, ma forse così non vi dice niente, vi dirà sicuramente di più se lo sentite cantare. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down down down da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me easy. Show me the heart. I'll be what you want. And it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da da da, da da da, da da da, down, down, down. Down, down, down. Show me easy. Show me the heart. I'll be what you want. And it's physical. Keep it subliminal. L'abbiamo ballata. Ballata dall'inizio alla fine. È difficile stare fermi. Mamma mia. Di fronte a Piece of Your Heart. È un gran pezzo. Ma hai sentito quando ho fatto la storia cosa ho detto? Meduzza con due Z. Perché Meduzza? Stavo scherzando. Pensavo Merluzza. Tipo, no, sembra un po' un pesce. Stavo un po' giocando sulla pronuncia. Dicevo, canzone semplice. Perché in realtà non c'è non nulla è che dica di complesso. Che, esatto. Sì, sì. Però di un'incisività e di una efficacia. Il giro, il ritornello, il groover. Cioè paurosa, paurosa, paurosa. Paurosa. Basta che ti giri. Che siamo sempre lì, esatto. È. Stiamo sempre a cercare paroloni, frasone, concetti filosofici. E uno si mette lì a fare e fa un botto di successo. Sì, è così. È la musica che gira adesso, ma d'altronde siamo anche noi schiavi nel bene. dei pezzi che funzionano e dei pezzi buoni. Ma magari funzionano solo tutti. Allora, ti volevo torniamo a un po' di notizie, sì, della settimana. Ti volevo dire, ti piacciono i proverbi? Ti piacciono i detti popolari? Dica. No, ti piacciono così? Sì. Uno, quello, sì, cosa conosci? La gatta va al largo quando... Anche, ce lascia lo zampino, certo. Ce n'è uno su una città. Sì. Che lo conosci? Qual è la città? Cioè, che erano un numero definito. Ah, 30 trentini. Esatto, come fa? Erano tutte 30 trentarellando. Sì, 33, okay? Trentini. Siamo in radio, non stai facendo slang. 33 fantastico. Trentini entrarono a Trento, tutti a 33 trotterellando. Tra l'altro abbiamo un tavolo di ragazze di Trento che ragazze Trento. Che sono di una palestra, una decina più o meno. Allora, ragazze di Trento sulla palestra, minimo stasera il convento vengono molti i nostri amici. Sì, pienissimo. Però questo era per dire quale invito migliore. Se tu ripeti 33 trentini che entrano tutti a 33 trotterellando, comunque è un'assonanza, sì. Un'altra assonanza è stata creata nel cinema questa settimana perché, stai ben attento, Nicolas Cage, presente? Si è scheggiato. È forte, cioè, attore famosissimo. Sì, okay. Quindi Nicolas Cage, sì, interpreterà Nicolas Cage se stesso in un film che parla di Nicolas Cage. Che tripletta! Cioè, al limite della filastrocca, sì, cosa succede? Come Willie Smith. Sì, no, però sì. È Gemini. Sì, più o meno sì, però vabbè, Will Smith ha fatto poi una 25 anni dopo. Sì, esatto. Però questa è proprio allora, intanto Nicolas Cage sta vivendo un periodo un po' difficile lavorativamente. Con tutti questi casini non gli stanno assegnando molti ruoli. Quindi c'è stato questo. Aspetta un attimo, non gliene stanno assegnando molti ruoli, ma una volta che gliela assegno. Ma perché? Perché adesso ti spiego. Allora, il film intanto si intitolerà, che è difficilissimo, sì, The Unbearable Weight of Massive Team. Quindi già il titolo è difficilissimo. Se quando vai al cinema, ovviamente, se non sai l'inglese, dove... dice quello. E poi soprattutto, come fai ad associare questo titolo al film di Nicolas Cage? Cioè, okay, è troppo difficile. Comunque, The Unbearable Weight of Massive... Unbearable, non so cosa voglia dire. Weight of Massive... Master Nick, ma... adesso lo cerco. Siamo nelle alte. Unbearable. Il bello della diretta. Ah, ok, insopportabile. L'insopportabile peso del talento, dell'autorità. Dell'autorità. Cosa succede? Dicevo, non trova ruoli importanti, e quindi c'è stato questo film definito di serie B, di categoria un po' più bassa, ci sta, che parla di Nicolas Cage, cioè non del, cioè proprio dell'attore Nicolas, okay, Cage, di lui stesso, soggetto, proprio, che è in crisi nell'industria cinematografica, quindi, sì, alla ricerca di ruoli. Autobiografico. Esatto, è alla ricerca di ruoli e nel frattempo, come spesso succede nei film americani, deve affrontare la figlia adolescente che sta crescendo con tutti i problemi dell'adolescenza che ci sono, sì, e una separazione dalla moglie, sì, e quindi anche tutto il discorso finanziario, avvocati, eccetera, eccetera. Ok. Per cui ha traslato la sua vita reale portandola, insomma, nella sceneggiatura del film. Si è raccontato, insomma. Come si dice, cos'è quello che si dice? Se la racconta. Se la racconta, sì. Ecco, però giustamente io mi immagino, perché questa è la scena che ho in testa, quando si fanno i casting. Ok, casting, dobbiamo fare questo film. Nessuno poteva fare lui. Esatto. È solo lui. Allora, chi può interpretare Nicolas Cage? Avanti prossimo, le faremo sapere. No, io mi immagino proprio una riunione tecnica. Allora, chi può interpretare Nicolas Cage? Allora, Nicolas Cage, aspetta, altri? Ma No. Ma quello... Ok, finito il casting. Ok, posto. Ragazzi, grazie. Sono quelle belle notizie del cinema, sì, sì. E adesso io rimarrò aggiornato su questa notizia, su questo film. No, voglio sapere quanto incassa, perché è un progetto così. Voglio sapere quanto incassa. Sì, sì, voglio vedere se funziona oppure no, perché o è un colpo di genio o è un buco nell'acqua totale. Allora, ti faccio una domanda. Come è stato, tra l'altro, il Terminator? Insomma, sì, sono gli ultimi film. Ti faccio una domanda. Visto che ti vedo un attimo preparato. Se io ti imitassi un attore, sì, mi saresti... Sapresti dirmi quanto ha incassato il suo film? No, è impossibile. No, però so che ci sarà il sequel anche di questo. È stato confermato. Ci sarà? Non hai letto? No. C'è Joker 2. No, veramente? Confermato, sì, sì. Ah, cioè, è stato confermato di settimana, sempre con Joaquin Phoenix protagonista. Dimagrito? Rimarrà magro. Confermato anche il sequel di Joker, che non so come si chiamerà, non so di cosa parlerà, ma Joker, sempre incentrato sulla sua figura. Però tornando a Nicolas Cage, è come se tu producessi un brano, sì, che si intitola Alex Angioletti. Perché no? Però e che tra l'altro non solo si intitola Alex Angioletti, ma che ci metti una cassa in quattro e una voce un po' robotica che fa Alex Angioletti, Alex Angioletti.

Mamma mia. Giorgia, io sono Giorgia. Oddio. Sei sono partito. Una donna. Sei partito. Sono cos'è? Cristiana. Cristiana. Beh, Giorgia, dai. Io sono Giorgia. Dai, sono una donna. Sì. Sono un po' rallentata, BPM un po' più basso. Rispetto all'originale. Okay. L'estate addosso in siamo questa rientrati, versione. Siamo rientrati in remix, diretta. Siamo tornati in diretta. Master Nick e Alex Angioletti. Questo sabato dinner dance del convento. Yes, che tra una quindicina, ventina di minuti al massimo si trasformerà appunto in dinner and dance. Sì. No, bello, dinner c'è già. Si trasformerà anche in dance. Hai visto la pubblicità che ho pubblicato? Con lo spazio Dedicomania. Sì, assolutamente. Ci basta poco per passare da